Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Pepe, scritto e interpretato da Laura Riccioli. Chissà carcerata, viva una volta semmane. Chissà carcerata, vero munna salutare. Come soffre di muore che sta c'è. Manco coraggio sopra calore. Non sa se giusirò o sto scenario. E prego a Dio pure se oggi sbagliato. Chi sta in galera chiama sempre amore. Innamorata e c'è creatura d'arte. Chi cerca un bagno con una canzone. E c'è lo spanno c'è la libertà. Chi sta carcerata vive una volta a settimana. Chissà carcerata, vero mondo stai lontano. Chissà carcerata, pensa a chi c'è sta la mano. E cercano un segno per campare. Chissà carcerata, non ci sbaglia ma fa amore. Chissà carcerata, cerca sempre un compagno. Chissà carcerata, già si sente abbandonata. Oh, mamma mia. Porta Carraia. Cognome, visitatore autorizzato, prima porta, cognome, ha lasciato le sue cose? La perquisizione, quali osservazioni le facciamo solo noi, lei qui è ospite a casa nostra, professoressa. Seconda porta, le rose, terza porta, le grida esultanti durante la partita di calcio, primo cancello elettronico, cognome. Secondo cancello elettronico. Chi è che c'ha la 46? Terzo cancello elettronico. Passi con scarpe da ginnastica, passi con scarpe dure, nere, d'ordinanza. Odore di varecchina. Quarto cancello elettronico. Le mandate delle chiavi nelle porte che vengono aperte, le mandate delle chiavi nelle porte che vengono chiuse. Odore di cibo cattivo. È tutta colpa de Berlinguer. Siamo su un'isola che vaga alla deriva. Donna che tradisce non merita perdono. Il tintinnio costante delle chiavi. Quanto te manca? Chiave, remo, ancora. Rebus 96. Chiave, remo, ancora. Ma questa amnistia la fanno poi? Le caramelle rossana, le caramelle alla menta. Non si dice detenuti, si dice carcerati oppure ristretti, come il caffè. Le risate pazze. Quello si chiama crick rock. E perché? Perché si sta a far carcere per un furgone di patatine rubato. Le sigarette, amiche. Quanto te manca? Collega, e fattela sta galera e zitto, no? È tutta colpa de Berlinguer. a colloquio col proprio figlio con una maglietta con la scritta Bad Influence. Scuola! Le domandine, lo scopino, lo spesino. Qui non ci sono signori, solo ragazzi. Il profumo della pizza. Sono qui ristrette persone che hanno problemi con l'ordinarietà della vita democratica. Una chitarra elettrica suonata con rabbia e disperazione. È tutta colpa de Berlinguer. Ode alla mia casa. Non si dice guardie, si dice assistenti. La televisione, amica. Vigilando, redimere. Dottore, ma perché non ve ne andate al mare? I guanti neri, il pianto di un bambino in una cella, sua madre che stende i panni, i fiori fatti col sapone, i fiori fatti con la plastica, i fiori fatti col nero fumo. Dicesi, battitura, l'operazione che gli agenti di polizia penitenziaria compiono ogni giorno per accertarsi che nessuno abbia segato le sbarre. Dicesi, battitura, l'operazione che i detenuti compiono per richiamare l'attenzione su particolari problemi o necessità, battendo contro porte e finestre, pentole o altre suppellettili. Assiste! I fischietti. Assiste! Il canto. Assiste! Fratelli d'Italia. Buongiorno Vita! Ti posso chiamare Vita, professore? Oggi! Sì, sì, firmo. Ma quanti ne abbiamo oggi? Tu c'hai bisogno d'affetto, è vero Vita? È per questo che ti tocchi i capelli, è vero? Pur io lo faccio, sai? Tricotillomania si chiama. Ma adesso ho deciso che me li faccio tagliare tutti, così nessuno mi può venire a dire che hai spedito Pepe, ci manca l'affetto. Sai perché? Perché a me mi basta l'affetto degli assistenti, è vero o no, cocca? Assistente, io ti voglio bene, cocca! È forte, proprio è forte! Ma tu sai che vuol dire non dormire per 5-6 giorni di filato? Quella, l'assistente, mi viene a dire che tengo gli occhi vitrei. Le altre? No, le altre non vengono proprio oggi. Anzi, mi hanno mandato a dirti che oggi c'è una partita di pallavolo proprio importantissima, proprio irrinunciabile, hanno detto, quindi proprio non vengono. Ah, perché ti scoccia di fare lezioni solo con me? No, eh? A questo punto cosa? A questo punto preferisci farti una bella passeggiatina a mare? Senti, ma che fa? Non ti pagano se stai qua solo per me? Tu prova pure a chiamare, ma tanto quelle non vengono proprio. A proposito, prof, ma quanto ti pagano a te? Ovvero? Ti hai fatto ridere! Vita, ma già scucciato di dipingere? Lo so, il dipinto è quasi finito, l'hai scelto io, ma insomma, sarà che questo mare che mi fai disegnare c'hai i colori tristi, Vita? Oggi voglio fare altro. Poi non capisco che ci fanno il quadro quella femmina alla finestra. Aspetta, ma che sta aspettando? Secondo me, femmina bella. Femmina me, ma che stai aspettando? Dice che sta aspettando a un amante. Che le regali un poco di serenità. Che se la porti su quell'isoletta sperduto che si vede nel quadro. È possibile. La professoressa dice che è possibile. Ci fa piacere, va. Vita, tu mi devi dare un nome, un cognome, uno qualsiasi, così io poi ci scrivo. Qualche uomo tra i detenuti a cui insegni, a lui poi ci dai il mio e spedita Pepe ci dici di nome e di fatto, così ci fai fare pure due risate, va? Oppure ci chiedi se la sua vita c'ha bisogno di un poco di Pepe. Questo funziona sempre, funziona. Chi è che ti risponde di no? Voi? Ma fatemi il piacere, va? Ma siete nervosi oggi? Io ve l'avevo detto che quelle non venivano. Avete fretta di tornare a casa, eh? Siamo sole, io e voi. Ma che tenete paura? Assiste, la professoressa tiene paura di restare da sola con me? No? Allora mettetevi il vostro grembiolino, no? Ma stasera che fai con l'uomo tuo, professore? Non mi prendere in giro, è la festa delle donne, farete cose pazze. Sì, stasera motivi di commissario Montalban. Ma fammi il piacere, va. Ti piace il commissario Montalban? No, a me non mi piace, a noi ci piacciono altri film, Vita. Ah, e non essere noiosa, avanti, va. Raccontami qualche cosa di interessante, perché sennò sono io che me ne torno in cella, eh. Ah, state prendendo lezioni di tango. E tuo marito com'è? Bravo, eh? Ci dà di tacchi, ci dà di punto. Il tango è passionale, eh? E voi siete passionati. Che fa, non mi rispondi? Ma quella che te l'ha data? A Mimosa. Il comandante! Ma guardi un po', ma che ti fa la corte? Ha dato una mimosa a tutte le insegnanti. Ma che gentiluomo, va, e chi ce lo faceva? Datemene un pezzetto. No, tutto no, prof, non... Ah, va buono, va. Ma ha già cattato pure la mimosa, va. Senti un po', Assiste! Ma voi assistenti, la mimosi, il comandante, non ve l'ha regalata? E come mai? Senti, Si vede che non siete abbastanza femmine. A me mi piace di scherzare, mi piace. Dimmi tutto poca. Questi proprio non sa stare senza me, ci credo, perché senza me queste mangerebbe proprio. Allora, cocca, dimmi tutto. Assiste. Mamma, che fastidio vedere questo orecchino. L'ha fatto stanotte con i fondi delle penne Bic. È plastica. Volevo essere un poco più femmina, oggi che è la festa delle femmine, è vietata. Sta vedente. Me l'ha fatto togliere, ma. E spedita pepe, siete come un autobus, siete sempre piena. Se sapessi invece che sull'autobus che io sono c'è sempre posto. Ma ancora che li aspetti a quelli? Ma mo ti faccio vedere io dove stanno ste carcerate. Eccole là, tutte là stanno ste disgraziate. E che vi avevo detto? Stanno giocando a pallavolo. Va, ecco Maria. Ma Maria è proprio brava a giocare a pallavolo, è proprio brava. No, professore, io preferisco stare qua con voi. Vi voglio proprio fare lavorare oggi. Mica ve ne potete andare. Che direbbero le educatrici? Che potete lasciare da sola la povera spedita pepe? Non sta bene, no? Guardate, io scendo solo quando venite voi, perché se no sto buttata sul letto a guardare documentari. E spedita pepe, uno dice bugie, Siete peggi nu carabinieri, sì. Sì. Io guardo sempre i documentari. Perché? Perché si imparano un sacco di cose senza fatica. Per esempio, stamane ne hanno fatto uno che non mi ricordo in che paese, dice che nascere donna è peccato. Pure! Dicevano pure che in Cina per le donne è vietato fare più di 3 figli. Perché proprio 3 poi. Cioè, praticamente se nascevi in Cina nascevo proprio. Tengo 4 fratelli. La verità, sacce manco quello che fanno. Non mi vengano a trovare, sono cattivi, sono. Insomma, guarda, nel documentario dicevano che in Pakistan una donna è stata messa in carcere con i suoi figli solo perché si era ribellata al marito che la picchiava tutti i giorni. Ma se io tenessi il potere, guarda, io cambierei tante cose per le donne: la violenza, sfruttamento, e bambine prostitute, i matrimoni forzati. Sempre in Pakistan, se tu ti rifiuti ti buttano pure l'acido in faccia. Non è che nel mio quartiere sia molto diverso, vita, A me a 18 anni mi hanno fatto sposare una piazza e merda. Scusate, un pezzo grosso del mio quartiere, va buono. Chi le si scordano che sono gescite e camiezze? Ti devo confessare una cosa, professore. In realtà, no. Io ieri sono scesa, no? E ho giocato a pallavolo. Però ho perso. No, non è che a me mi dispiace di avere perso, insomma, non è che nella vita si può sempre vincere, no? Spedita Pepe prima vinceva sempre. Mi dicevano che ero la più veloce, la più rapida. Ed eccomi qua. No, Vito, sai che c'è? Che mi dispiace di avere fatto brutta figura con Angelo. Chi è Angelo? È l'insegnante nuovo di pallavolo. Professore, ma dateci lo scoop, ma è fidanzato. E voi chiedete? sì, dici no, no. Ma senza fare lo smorfioso, però, eh? È un poco giovane, però è tanto gentile. Insomma, praticamente Angelo, no, stava tutto scombussolato, povero figlio, sapete perché? Perché hanno trovato un detenuto greco, no? Un guy si conosceva, che si è impiccato. Qua all'osservazione. Non lo sapevate? Sapete che l'ha trovato? Cocca. Era arrivato da 2 giorni, nei 5 minuti tra un controllo e un altro, ha preso. Beata lui. Scherzo. E sto scherzando. E non è vero. Volevo vedere che faccia facevate. Ma perché si sarà ammazzato veramente, che fa? Rimanevate? Rimane tu stesso, ma che onore! Si sta pure mettendo il grembiulino. Mi fa piacere, ma. Ma se a me non mi va di dipingere, voi che fa? Vi mettete a dare una ritoccatina là a quella crosta che ha fatto Olivia, eh? Perché non ce la date pure al mio dipinto? Da sola, sempre sola. Ah, boh, allora non faccio niente, vai, vi do fastidio a voi e basta. No, non mi vado a dipingere, vita. Ma il teatro? Ma quando lo facciamo, sto teatro? La direttrice dice che mi fa fare teatro, ma... ma se io vado a Re Bibbio, guarda, finisce che vado a Hollywood, vado, eh. Non si capisce proprio perché non lo possiamo fare. I maschi sì e noi no. Ma tu devi sapere una cosa, che io al carcere di San Gimignano lo feci, sai? Mi ricordo che il giorno dello spettacolo venne a vederci pure così a sorpresa i detenuti maschi. Ma non io mi emozionai tanto, una volta rientrata spaccai tutto a furia di calci. Ma come tutte cose belle, il brutto è dopo, no? Tu lo sai, no? Ti scende tutte cose. E poi quando fai teatro a un certo punto stai proprio col cuore aperto e spalancato, stai proprio. Pensi che magari era pure meglio se un poco te lo tenevano un poco più chiuso, forse, perché così magari resistevi un poco meglio. A cose, vino, a carcere, a che cosa? E poi guardi, prima dell'inizio dello spettacolo ho pensato, guarda, speriamo che non viene mia figlia a guardarmi, che mi vede combinata così, con una parrucca blu tutta chiatta in mezzo a tutte quelle disgraziate, tutta contenta di fare la recita. Ho pensato, guarda, se mi vede mia figlia pensa, ma mia madre preferisce stare qua dentro a fare la recita, a fare la buffona, piuttosto che stare accanto a me. Quella mica lo sa che quella è attività trattamentale, no? Però guarda, per me è stato un poco fare teatro, no? È stato un poco come avere una finestra interna dentro di me, no? Dalla quale sono riuscita a ridere di me. Quello è importante, vita, e quello è terapeutico proprio, quello fa bene, va. Ma buona. Ma lo sai qual è la soddisfazione? La soddisfazione è che tu col teatro un poco li fotti a questi, lo sai? Sì, vita, perché se tu riesci ad avere delle belle emozioni in carcere, è come se lo fai sparire, proprio l'ignori, capito? Proprio lo fai sparire. E poi sai cosa? Il teatro... è un poco come quando ti fai, no? Sì, però non fa male alla salute, poi fai il gruppo, t'aiuti, c'è la fiducia, e poi ti sale una cosa psichedelica dentro che io proprio non te la so sfidare. Ma tu lo sai! È come se ti dessero un permesso premio ogni volta. È tempo rubato al tempo. Ma che bella frase ho fatto, eh? Ti senti libero, ti senti felice. Se avessi fatto teatro in carcere. Ma mi stai ascoltando? Ma sei nervosa, sei, eh? Qua, sul collo, dici? Niente, mi sono un poco graffiata stanotte. E tu state zitto! Mi sono un poco graffiata, vita. Non vi dovete preoccupare, sono cose che succedono, questi, a chi non sa stare chiusa. E io chiusa non ci so proprio stare. Mi sa che non me la faccio tutta la galera, prof. Che intendo. Sì, ti ping. Però voglio cambiare di segni, Non ce l'hai tipo un'immagine della Madonna, degli Adongioletti, oppure qualche Gesù? A me mi piace. È tipo il Gesù che sta disegnando Rosa. Maronne mie, quello è proprio il Gesù più bello di tutti. Quello è il Gesù che ci facevano vedere quando eravamo bambini. Quello che sta capito, che sta così. Lo sai qual è un altro che mi piace di Gesù? È quello che cambia gli occhi quando passi, ce l'hai presente vita? È quello che tu passi. Mo ti faccio vedere, quello che tu passi e ce l'ha chiusi. E poi fa un altro passo e ce l'ha aperti. Come a dire, guarda che io sono capace di risorgere quando meno te l'aspetti, Ha pure un poco paura. E poi mi ricordo di quella Madonnina con tutta l'acqua dentro, no? Con tutte le luci gialle, verdi, azzurre. Io ce l'avevo sul comodino del collegio. Mi ci addormentavo, era una bellezza proprio. Mi dava tanta serenità. E già lontane. Niente. Vabbò, che faccio? Che mi fai fare? Il punto di fuga mi fai fare? Vabbò, guarda sul catalogo se trovo qualche ispirazione. È arrivata tanta gente brutta, è arrivata, tutte squartate, tutte marocchine. Speriamo che mo che se ne va a Vicky, la mia concellina, speriamo che non me li metti in celle. Perché sennò ce lo devo insegnare io come ci si comporti in carcere, capito? Magari ti metti in cella quelle che non si sanno comportare, che ti fanno fare brutta figura quelle altre. Oppure quelle che piangono sempre. Oppure quelle che non si lavano. E qua adesso. La sorpresa, lo sai qual è? Che in queste carcere d'estate le docce non funzionano. È vero o no? Ma voi qua dentro dovete stare attenti, perché qua io, guarda, a me mi vedete tutta buona e cara, ma io qua faccio esplodere una bomba che voi non ve la potete nemmeno immaginare, va? Una bomba di dimensioni proprio epocali, abissali proprio. State attenti, dovete tutti quanti stare a tempo, tempo 2-3 giorni. Quanta moto parlo senza parlare, quanta moto fumo senza fumare, quanta strada per poter incontrare, quanta calma mille per me calmare. Scoccio mirare verde per te, sto facendo che tu sulle da te, in da chiesa vado sempre a pregare, insieme ai santi vado vengo a cercare. Ti bacio vergine e ti ne bigliottine, ti amo da morire. Taccia, mandata, non mi regalo lì, firmate con l'inghiosso per indovarmi. Ma tu non mi senti, non me puoi sentire, ma che taccia fatta non riesci a capire. Professore, ma perché in questi libri che ci porta... scusate, va... Scusate, ma perché in questi libri che ci portate queste statue sono tutte nude? Mamma, guarda quella come ridacchia! Assiste, ma che non avete mai visto un uomo con il pipo di fuori? Da appena visti questo, va? E mo fa la vergognosa, va? Per i greci era una cosa naturale. Ci fa piacere, è vero? Sentite, ma non è che me ne potete fare qualche copia che me la attacchi in cella? Grazie. Anche se vi devo dire che a me mi sembra che qua, in questo catalogo, questo qua c'è cascato qualche cosa. Qua proprio, sì, vita. Qua, con rispetto parlando, ci manca qualche cosa. Mica come a Franco mio che teneva proprio. La faccia a Franco. Faccio ritratto a Franco. Franco mi. A memoria. Ma boh. Taccia, portate, ti bacio vergine, e ti indebigliottino, ti da morire. Faccio mannate, non mare gattui, firmate con le inchiostre per indovarmi. Ma tu non mi senti, non mi puoi sentire, ma che t'hai fatto, non riesco a capire. Sta voce si è rotta, non posso parlare, soltanto non vado, ma può far cuccia. Non lo posso disegnare a Frank, mi dispiace. Non me lo ricordo più come ho fatto. Ma è talmente tanto tempo che sto chiusa qua dentro. Ma è spedita Pepe. Troppo carcere e poco amore. Ma perché non ci fanno fare sesso? Ah, quelli si risparmierebbero un sacco di medicine. Ma tu lo sai che è successo l'altro giorno? Ah, non lo sai che è successo? Ah, io te lo racconto, praticamente, no, l'altro giorno. Ce l'hai presente Jennifer? L'americana, quella della terza sezione, ce l'hai presente? Quella praticamente l'altro giorno stava col suo compagno, no? Stava lì nella sala colloqui e lui se la stava proprio, ce la stava proprio leccando. Praticamente quello che è successo. L'hanno scoperto. E quello si è beccato una denuncia per atteggiamento in luogo pubblico. Ma è il luogo pubblico questo? Cose pazze, cose. Madonna mia, lasciamo perdere, va. Vediamo un poco questo catalogo che ci riserva di sorprese. Questo si piaceva, eh? Questo si sta sempre a fare i ritratti, vero? Madonna mia, come stanno impicciati questi pittori, professore. Ogni volta che ci raccontate proprio la storia di questi qua, madonna mia, Van Gogh, Caravaggio, Modigliani, Pollock, tutti impicciati stanno. Ma come mai? Per questi che la pittura, insomma, Ah, pure il teatro. Madonna mia. Ma tu guarda come chiattona questo! La Venere di Milo! Sarà pure la Venere di Milo, ma ci piaceva di mangiare a questa, Si è pure misa nuda, si è misa. ti faccio ridere? Ti faccio ridere? Mi fa piacere, va! Avete visto, assiste, che serve a qualche cosa! A ridere servo! La verità è che io qua dentro non voglio imparare proprio niente. E non ci voglio dare la soddisfazione a questi. A questi ci piace quando tu gli sfili la testa, ce la metti su comodino e ci dici adesso ci fai quello che ti pare. E io adesso lo faccio. Mi prendo una bella terapia e vi saluto a tutti quanti. Che tengo, voi sapete? Mi sono arrivati altri 3 anni, professore. Ieri. Eccola là, quella gattona. Quella sono 15 anni che sta chiusa qua dentro. È completamente mangiata. Praticamente la usiamo solo come raccattapalle. È completamente mangiata. O sapete come la chiamiamo? La sbullonata. Ecco, io come a lei non ci voglio diventare. Ecco, voi mi dovete dare la garanzia che io come a lei non ci divento. No, non fate la furba, la parola me la dovete dare voi. No, io non mi fido di me, io mi fido di voi. Allora me la date questa parola, facciamo un patto, anche perché se no qua voi che ci state a fare? Non lo so ancora qual è questo patto. Vabbè, alla fine della lezione ve lo dico, vabbè. Che ore sono? Mi hanno detto che devo fare queste cose ogni mezz'ora, tutti quanti insieme, ma a me mi sembra che sono da solo, però, che stanno tutti quanti giocando a pallavolo con Angelo e mi hanno lasciato qua a fare questa cosa. Ho già fatto il mio dovere, va. Vita, mi piace di parlare con voi, sapete? Io sto bene con voi. Perché diciamoci la verità, dottori, queste c'hanno i pensieri, mica ci posso parlare pure dei miei, no? Con voi invece posso parlare, con voi... Ah, pure voi ci avete pensieri? E che pensieri ci avrete mai? Vabbè, ma quello è perché siete professoressa. Ma di cosa? Se sei libero, sei libero e basta, vita. Ma che vuol dire? Che uno anche se sta fuori si può sentire imprigionato? Ma mi prendi in giro, vita? Quando uno sta fuori, fa come ci pare. Se uno ci dà fastidio, lo mandi a fanculo, ti fa una bella passeggiata. Mi viene a fare discorsi da intellettuale, mi sfastidiano questi discorsi, professore. Scusate. Sentite, che me lo fareste un favore? Che ci fareste una telefonatina a Franco e magari ci chiedete se per favore mi può rispondere? Qua ci sta scritto il suo numero di telefono, voi lo chiamate. Ma tanto non lo viene a sapere nessuno, professore. Ma quelle mica un messaggio cifrato! Non puoi, O non vuoi? Io però mi credevo che noi eravamo amiche. Io mi credevo che tu, se potevi, un favore me lo facevi. Allora sei proprio uguale a tutti gli altri, Che delusione, Laura! Assiste, voglio tornare nella mia cella. E quando mai? Quello si starà facendo i fatti suoi. Quando uno c'ha bisogno di loro, non ci stanno mai, ci stanno. Quelli dicono che io sono così sin da quando sono piccerella. Vabbè, non è vero. A me mi hanno rovinato la testa in OPG. Ospedale, psichiatrico, giudiziario, vita. Siccome quelli non sanno che fa, allora ti dicono che tu tieni problemi d'affetto. Ma che problema è? Ma perché chi è che ottiene l'affetto? Allora ti pompano dentro i farmaci sempre, sempre di più. Talofen, minchiafen, cazzifen. Pure vostro padre. E che teneva? È con mamma. E adesso che fa? Insegna come a voi. Ah, allora è proprio di famiglia. L'insegnamento, Vito, che cosa? Certo che pure voi ci avete avuto una vita difficile. Avete visto quelli come fanno? Siccome quelli non sanno ascoltare, come voi adesso state ascoltando a me, queste è terapeutiche. Siccome quelli non lo sanno fare, ti pompano dentro tutti i farmaci. Guarda, guarda, guarda che mi hanno fatto i bracci. Me l'hanno rovinato, me l'hanno. Ma l'importante che cos'è? L'importante è rialzarsi, vita. Adesso stanca di nuovo in coppo ring. E spedita è tornata. Caggio combinato. Ha già sfasciato tutte cose. Mo metto a posto però, Scusate. Vita. Ma tu ci credi in Dio, vita? Sei un poco confusa, non ti facevo così fredda. Come fai? Io mi ricordo di un vescovo, di un importante, no? Di Napoli, che praticamente mi invitava quasi tutti i giorni a casa sua, mi dava pure un sacco di sorti. E poi si è scoperto che era un usuraio. Ti sconvolgono queste cose? Ma non ti devono sconvolgere, vita. Comunque, guardi, io penso che anche se tu a Dio non ci credi, secondo me lui a te ci credi. Eppure a Vicky, la mia concellina, sì. Eppure a me. No, a Cocco non ci credi. Ma poi guardi, io penso a qui tutti quanti ci piglia a pregare, ma secondo me Dio è più fatto psicologico, Voglio dire, è un fatto di volontà. Cioè, se tu vuoi cambiare, cambi, ma se tu non vuoi cambiare, non cambi, giusto, no? Vita, ma tu lo sai che dopo di te vengono quelle del buddismo? Ma com'è sto buddismo? Ma io diciamo che sono cattolica, anche se non è che quando viene il prete io ci parlo più tanto. Vita, la prima, la seconda, la terza confessione c'è materiale, ma che peccati possiamo fare qua dentro? Guarda, secondo me noi all'inferno ci stiamo già. Questo che mi dici è proprio una bella frase. Dettatemela un poco, però piano, sì. Io scrivo molto lentamente, avanti. Punto. Sì. Viro. Sì. Parte. Allora. La rilegge. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione, apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Ve la siete imparata a memoria? Come va? Voi siete una che soffre, vita. Io queste cose le sento proprio. Non lo conoscevo sto Calvino. Pure lui stava impicciato forte. Sembra che parli noi. Vita, ma lo sai che mia figlia sta studiando storia dell'arte? Sì. Però non ce lo dire che sto facendo progresso, Se mi manca. È certo che mi manca, vita. Ma guarda, ti dirò, mia madre mi manca molto di più. L'amore della madre è la cosa più grande che esiste. Guarda, secondo me tutti gli altri amori sono amori delle fiction, delle poesie. Ma una madre. Tutte doni in una madre. anche se non sta proprio là, no, vicino a te, mica fa differenze. Per esempio, una che mia madre può stare qua con me, no? Però l'altro giorno è venuta e mi ha portato un pack. Un pack speciale proprio. Ma la verità, non l'ha ancora aperto, così almeno c'è ancora qualche cosa che mi aspetta. No, finisco qua, poi vado là, mi prendo una cosa e poi un'altra. Anche perché chissà quando torna. Dai, guardi, c'è ancora il suo profumo sulle mani. Madre, tu radice profonda che mi sostieni quale bambina maremoto nelle quiete acque dello stagnante pregiudizio. Forse tu non lo sai, ma io ti conosco da prima che tu conosci a me. Quando ero dentro di te provavo le tue emozioni ed è stato tutto bello, ma poi ho visto la luce e quel legame di protezioni è finito. Ti piace? La G-scrittiva. Sì. I figli prima ti scamazzano le ginocchia e poi il cuore, dice sempre mia madre. Però guarda, vedi, tu non è che ti devi proprio preoccupare, perché io in qualche modo sono madre pure qua. È tornata Cocca, è vero o no, Cocca? Che io qua sono un po' con la madre di tutte, è vero? Sì, tiene ragione. In particolare io sono la madre, diciamo, la mamma di Vicky. Vicky, la mia concellina, sì. Vicky. Vicky adesso mi lascia, se ritorni in Perù, magari si trova pure un bel fidanzato. Anche se ti devo dire che non è che ci vuole tornare molto in Perù lei, No, lo sai perché? Perché guarda, è la seconda volta che la mandano qua come mula. È la seconda volta che se la bevono, però. Anzi, mi chiede, ma non è che magari il vostro compagno tiene qualche amico single che ci possiamo presentare? Ci chiedete se tiene voglia di conoscere qualche bravo ragazzo? Vabbè, va, si fa per dire, va. Mula, che significa? Praticamente sono quelle che tengono la droga proprio dentro la papola papola, capito? Vabbè, ma professoressa, che mica si scandalizza, è vero? Sono un poco di anni che pure voi state qua dentro, è vero o no? Ma quanto vi manca a voi? Fine pena mai, A me mi piace di scherzare, mi piace proprio. Vabbè, va. Sai cosa? È che io queste qua le faccio cantare, le faccio ballare, ci faccio pure battere le mani. Ma la verità è che io queste non le posso più vedere. Voglio andare a casa, la casa dove? Sai cosa adesso? Adesso ti faccio sentire una canzone bellissima proprio, guarda. Questa è una canzone che tengo qua che mi ha fatto conoscere Jennifer, l'americana della terza sezione. Questa è proprio una canzone, quella della lingua proprio. Quella praticamente mi ha spiegato tutto il testo della canzone. È una canzone di Celine Dion che significa io sono il tuo angelo. Questa mo ti faccio sentire. Questa canzone è una canzone che io voglio dedicare a mia figlia, che sta da anni senza sua madre. Figlia mia, io sono il tuo angelo. Sono un angelo spennacchiato, ma sempre angelo sono, è vero o no? Lo dice pure la professoressa, lo dice. Figlia mia, io avverto sensazioni negative che mi si soffoca la gola e mi si stringe il cuore, ma tu sai benissimo che io, se potrei, cambierei queste situazioni. Io recupererò tutto. Ormai è tanto tempo che ho perso il contatto con la giungla e quindi l'animale che è dentro di me non prende più sopravvento sulla donna. Io recupererò tutto. Tu devi stringere i denti e cercare di farti coraggio, perché io, guardi, in un modo o in un altro, nel giro di qualche tempo torno a casa. Sì, vita, ci sono buone possibilità. Secondo me, guardi, io nel giro di 2 o 3 mesi, guarda, secondo me mi danno pure gli arresti domiciliari, va? Ma voi che vi ridete? Ma voi che ne sapete? Se c'è qualcuno per cui proprio non ci sono buone possibilità di uscire, quella siete voi. Mamma mia, che bel mestiere che avete scelto. Tutta la vita in carcere a staccare gli impiccati dal soffitto, il giorno dopo al lavoro. La verità. Ho sentito che dice Celine, mai perdere la speranza. Mai perdere la speranza. Ma è tutte noi qua dentro abbiamo perso qualche cosa. Vicky, per esempio, qua dentro ha perso un bambino. Non lo sapevate? Ah. Ah sì. Vabbè, ma guardate, è stato meglio così, eh. Perché almeno non ha dovuto soffrire pure la creatura. Voi lo sentite qua dentro ogni tanto? Il pianto di un bambino? No? Ah. Quello è il figlio di Rosa. Quello praticamente nel giro di una settimana compie 3 anni. E che succede? Ci regalano la libertà. Ma senza la mamma. Ora io vi chiedo, ma è meglio essere liberi, ma senza la mamma? Oppure con la mamma, ma in carcere. No, vita, questo è un altro capitolo della vita di Spedita Pepe, che è meglio non aprire proprio, ma. No. A me basta che non me lo fanno sentire che piange, perché se a me me lo fanno sentire che piange è capace che lasciamo perdere, ma. Come se non fossimo tutte mamme qua dentro. Vabbè, allora che mi fai fare, eh? Perché io fermo proprio non ci so stare, fammi fare qualcosa. Autoritratto. No, ma l'autoritratto porta sfortuni, carcere, vita, ma che dici? Ah, può essere un modo per me per conoscere delle cose di me che non sapevo. Ma che tutti credi, io sono cretina. Che io non lo so, che poi tu il disegno lo porti allo psicologo per cercare di capire se io sono normale. Chi sarebbe quella normale, tu? Una che dice va a fare attrice, invece fa professoressi carcerale. Ma fammi il piacere, va. Ma tu pensi che a noi ci interessa veramente qualche cosa di venire qui a pittà? Voi in realtà siete i peggiori, siete. A questi almeno li possiamo odiare, a voi vi dobbiamo pure volere bene. Perché poi? Se venite qua vuol dire che vi sta bene che il carcere esiste, solo che pensate di poterlo rendere un luogo migliore grazie alla vostra sensibilità. La verità, il carcere va eliminato e basta. Solo che non si può eliminare perché c'è troppa gente che ci mangia, gente come a voi. Io mi conosco molto bene. È proprio perché mi conosco bene. Non tengo voglia né bisogno di farmi chi tratta. Ma siamo sicuri che non siete uno scarto? A noi qua ci mandano solo gli scarti. Io non ho mai visto una cosa vostra, un dipinto vostro, niente. A chi mi dice che non siete uno scarto? Perché se siete così brava venite qua per 15 euro l'ora. Mi è venuta un'idea. Adesso l'autoritratto me lo fai tu. Così vediamo se non sei uno scarto. Allora, se viene bene, ce lo spedisca a mia figlia, così almeno ogni tanto mi penso. Se invece viene male, ce lo diamo all'assistente, così finalmente se lo mette su comodino e ci fa quello che gli pare, eh? No, non lo dica alle altre, è un segreto nostro. Però guarda, però mi devi fare belle, questi graffi qua, non ce li devi mettere, eh? Ovvero? E dove mi metto? Ah, è là che c'è una buona luce, è vero? Mi mette seduta là. Ecco qua. Ma che ti metti così vicina? E dove devo guardare? No, io ti guardo proprio negli occhi, ti guardo, amiche. Ma perché strizzi gli occhi così? È una tecnica. È per vedere le luci e le ombre. Ah, ci capito. Ma ferma proprio, devo stare. Ci provo. Mi devi scusare, ma mi viene da ridere, mi viene. Vabbè, sto ferma. Vita, ma secondo te no? Secondo te io sono ancora una bella donna? Vabbè, grazie. Hai visto, mi sono pure sciolti i capelli. Ma dici sinceramente proprio? Sai che cose? Che a me qua mi fanno mangiare sempre pasta, solo pasta. Sto anche diventando come a Venere di Milo. Io tutti devi tenere presenti che io prima quelle là che adesso stanno giocando con Angela a pallavolo, io quelle sciacquette prima me le lasciavo dietro come fossero niente, però. Ma tu hai visto che cosce che tengo? Guarda qua, che cosce che tengo! All'età mia, guarda! Altro che la farfallina di Belem! No, vabbè, scusate, ma sì, sto ferma. Io proprio ferma, non ci so stare. Come stavo? Vita? No, l'ultima domanda, ma a te ti piacciono i bambini? E allora? Guarda che si vede che non è che sei proprio di primo pelo, vabbè, ma basta che ti rifai la tinta, sa? Ma io t'ho vista a te, perché tu vieni qua che sembri vestito proprio una lavandara, ma t'ho vista l'altro giorno che c'avevi tutti i capelli sciolti, tutti il rossettino, la giacchetta, tutto birbante proprio, ma che volevi fare, colpo su comandante? No, allora non mi rispondi. No, ma che mi importa del comandante? Che c'hai paura di avere dei figli? Oh. E come mai? La libertà. ho capito in che senso. La libertà, mica sono cretina. La libertà nel senso, sì. Ma la verità qual è? No, ma Vita, ma che ti viene da piangere? No, Vita, scusate. Volete un fazzoletto? No, ma voi non potete fare così. Voi vi dovete tutelare, però. Voi vi dovete proteggere un poco. No, scusate, non credevo che... Guarda che però, se uno ha paura di sbagliare, non va né avanti né indietro, te lo dico io. Io lo sapevo quando l'ho fatta a mia figlia, che avrei fatto tanti ma tanti errori. E che fa, non la facevo. E poi se non li fate voi, che tenete qualche cosa da insegnarci. Ecco. Oggi trovate il patto, Allora. Allora, io, anzi tu, mi garantisci a me che io esco da qua dentro normale. E io ti garantisco a te che tempo 9-10 mesi tu sarai una mamma veramente brava. Ma che fa? Ma ti faccio ridere? Ma come mai io ti faccio sempre ridere a te? Ma tu come fai quando finisci il corso, Vita? Vabbè, va, facciamo una bella pausa, che io proprio ferma non ci so stare, E poi guarda, ti devo dire una cosa, a me se c'è una cosa che mi piace di fare, quella è ballare. A me... Toglietemi tutto, ma non il mio corpo. Io non mi metto mica a piangere, io mi metto a ballare, anche se non c'è la musica, io me la ballo, me la canto e me la suono pure. A me mi piace tutto di una discoteca, a me mi piacciono i sapori, a me mi piacciono gli odori, a me mi piacciono i colori, a me mi piacciono pure i chess. Mi piacciono i cocktail. A me mi piace talmente tanto di ballare che io mentre ballo riesco a vedere tutte le scie del mio movimento. Tu devi sapere, Video, che io per la prima volta che sono entrata in una discoteca, io tenevo 14 anni, ho fatto uno spogliarello. Allora, io guarda, quella notte io ero talmente tanto presa da me stessa che così a un certo punto ho dato il mio corpo così a uno sconosciuto. E ci ho pure detto ti amo. Però la vita mi ha dato il dono di diventare mamma. Ma tu l'hai mai detto ti amo, Vito? Maronna mia, quanto la fai pesante però, tu lo dici, vedi che effetto ci fa, e poi quella cosa se deve essere si sviluppa. Maronna mia, quante emozioni, senza droga. Basta. ma tu mi devi aiutare, ma tu non puoi venire tipo tutti i giorni. I fondi, fondi, tu vieni pure senza fondi, no? Ma io sono capace di prendermi scatole intere di Rohypnol, è chiaro che in quelle condizioni non posso fare niente di buono, ah? Progetti, no, un tenga i progetti, tanto c'è la crisi che serve stare lì a fare progetti. Sai che voglio fare se esco? Quando esco, cioè se esco, il Grande Fratello. Secondo me io sono precisa per fare il Grande Fratello. Ma che non te lo vedi? Ma nonno mio, ma tu dove vivi? Ma tu stai proprio isolato, signorina professoressa. Allora te lo... anzi, guardi, adesso ce lo chiediamo a Cocco, che quella proprio tiene l'occhio clinico, proprio mi sta sempre a guardare. Allora, Cocco, secondo te io come sono per fare il Grande Fratello? Hai sentito? Precisa proprio. Sì. Sì, vabbò, vite, pure là sta chiusa, ma che c'ha che stai controllato, ma intanto ci stanno certi bei ragazzi, ma tu non lo vedi, ma ci stanno certi bei ragazzi, e poi, guarda, esci che sei piena di soldi, stai famosa, e poi, guarda, lasciamo perdere, ma tu non ci hai mai provato? E come mai? Ma come, io non ti capisco, ti dici che fa l'attrice, ma che preferisci venire a insegnare teatro e carcerà? Vita, ma secondo te no? Angelo, no? Se mi incontrasse fuori, che facesse? Ci uscirebbe con me? Però aspetta, tu mi devi immaginare, come a teatro mi devi immaginare, tu mi devi immaginare proprio... Allora, guarda, mi devi immaginare con tutto un vestito aderente, e poi mi devi immaginare un poco più magra, tutta con i capelli fatti, truccata, un poco più spensierata... Così che sto davanti a una vetrina, a un certo punto passa lui con una macchina, una bella macchina, abbassi il finestrino e mi fa: signorina, a me mi sembra di averla già forse vista da qualche altra parte, è possibile? No, io proprio non mi sembra. Ah, guardate, allora mi piacerebbe di portarvi in un posticino che conosco solamente io. Sarebbe bella, professore, guardami bene, negli occhi, dentro. Secondo te io qua dentro ce la posso fare? Avete sentito? Va, c'è cascata la chiave all'assistente. Ecco, questo tu non lo sai, ma questo vuol dire che nel giro di qualche tempo qualche detenuto esce. Saranno superstizioni, ma sono superstizioni vere, tant'è vero che adesso Vicky esce. Guarda, tra oggi e domani. Anzi, guarda, allora questo è proprio il momento più difficile di tutti. Tu adesso lei me la deve aiutare, perché questo è proprio il momento più difficile, quello prima di uscire. Perché? Perché questo è il momento in cui uno pensa di non essere più capace a fare niente. A me mi è successo un paio di volte che sono uscite così per qualche giorno e penso che una volta io... avevo per la prima volta gli euro, non sapevo come si spendeva, poi non riuscivo nemmeno a capire come si poteva aprire proprio il treno, no? E poi cercavo una cabina telefonica, stavano tutti col cellulare, ti metti in imbarazzo pure la commessa, e poi pensi, ma io sono capace, ma sono mai stata capace, è di vivere vita. Ma poi gli altri come fanno? Ma che tengono la parte scritta, come a teatro? Ma tu che ne sai? Vito, ma secondo me pure tu non è che sei poi così brava là fuori, Ma diciamo che hai istinto, se no non staresti così bene con noi qua dentro. Vabbò, scherzo, va. Allora, questo autoritratto me lo fai vedere? Vabbò, lo schizzo... Ma sembra una foto segnaletica. Assiste! Professoressa, si ha un regalo per voi da parte mia. Allora ve lo mettete sul comodino e ci fate quello che vi pare. Allora, professore, io salgo, va? Tengo un'urgenza, tengo fa. Aspettate. Fatti il mio dovere, va. Allora, Vicky aveva detto che mi bastava salutare prima di uscire, non è passata. Allora, voi adesso mi lo potete fare almeno questo favore di darci questa lettera che io ho scritto per lei? Ah, nemmeno questo. Allora, la potete ascoltare questa lettera, mi potete dire, non so, se è una lettera, se non è troppo una lettera da carcerato, se va bene. Ya, yeah. Almeno questo lo fa. Però dovete stare attente. Allora, Zuccherino, mi sa che non ce la faccio a venirti a trovare in Perù per il momento. Ma a che servono questi occhi nuovi se non sanno andare oltre le ombre dei cancelli che corrono sul mio domani? Ogni cosa è capovolta, fuori posto, come me. Diffidente e rispettosa, col quaderno, il fiocco rosso, la cartella ordinata, alla vita impreparata, ritaglierò infine il poter godere di un cielo stellato. Dolore e amarezza, compagni di viaggio, ma forte è la vita, e dentro di noi non spuntano rose solo di maggio. Riavrai ogni giorno, se in fondo lo vuoi, e prega che ormai non sia troppo tardi. Tu funambola, passo dopo passo in bilico, la vita appesa a un filo, in disequilibrio costante, nessuna carezza a sostenere, ad incitarti, appesa ad una realtà che disconosci. Per allontanare ogni timore dovrai dimenticare te stessa, immaginare ali che non hai e abbandonare il fervore di trattenerla questa vita, amarla talmente, talmente a fondo da percepirla già finita. Chiavi di ottone, donne di vetro, futuro di carta, destino di pietra, questi tarocchi di molti domani. Arrivederci vita mia e buona libertà, la tua piccola e spedita. Vi è piaciuto? Sì, allora è per voi, va. E quello non è venuto. A voi è piaciuto invece, è vero? Ecco, ora è per voi. Tenetela, però non ve la scordate che è preziosa, Allora, non vi scordate tre cose. Uno, di rifarvi la tinta. Due, di portarmi qualche Gesù. E tre, di onorare il nostro patto, E sappiate che come sempre è stato un piacere pazzo. Assiste! Voglio tornare nella mia suite? Sapete se è arrivata una lettera per me dalla professoressa all'ufficio educatore? Quella alta, con i capelli neri. Il cognome non lo conosco, lo sapete? Laura. Ma quando torna? E il corso di pittura, quando ricomincia? E il teatro? Ma quando lo facciamo, sto teatro? Sai che? Adesso la faccio su, mi prendo questa bella tela, il pennello, il colore, lo specchio. Ecco, ora mi prendo lo specchio. Mamma mia, che faccia che tengo! Vabbè, che se ne importa. Ecco, va. Con i capelli sciolti va un poco meglio. E poi pure gli impressionisti, quando si facevano gli autoritratti, non è che fossero poi così belle, tutti blu, verdi, tutti a chiazzi, tutti impecciati stavano, pure chi è me. Speriamo che qualcuno non mi viene a disturbare, va? Allora, se viene bene, allora l'autoritratto ce lo manda a mia figlia, così almeno mi pensa. Come lo faceva con gli occhi, Vito? Così li strizzava, vero? Ecco, che si vedono tutte le ombre, si vedono tutte le luci. Tutte ben organizzate, pronte pronti, scatolate, per essere disegnate proprio precise. Meno male, va. Così è tutto più chiaro. Lo spettacolo Pepe, scritto e interpretato da Laura Riccioli. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Roberta Castelluzzo, co-direttrice del Teatro Furio Camillo, per presentare Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, al Teatro Furio Camillo, dal 12 novembre al 5 dicembre 2021. Ben trovata! Grazie, buongiorno, come va? Bene, voi? È sempre un piacere, siamo sempre felici di sentirvi. Noi tutto bene, siamo in grande fermento, in questo momento il Teatro Furio Camillo è proprio assolutamente in fermento. Dopo questo periodo di blocco abbiamo ricominciato così in maniera burrascosa e la rassegna Battiti è proprio sempre un turbine di energia, di persone che passano, artisti che vanno dappertutto. È molto bello, molto caotico e molto bello. La racconti a chi non la conosce questa rassegna? È una rassegna di circo teatro che ormai esiste da 8 anni, 9 anni, non lo so, abbiamo perso il conto, ed è nata con l'idea di far arrivare in Italia, qui a Roma, compagnie sia italiane che estere che avessero come diciamo priorità il racconto utilizzando tecniche di circo, quindi non spettacoli di circo puramente tecnici, puramente tradizionali, ma comunque con un forte impatto teatrale. E negli anni è sempre andata crescendo, adesso è diventata appunto una rassegna di 4 settimane, un intero mese, che tocca un po' tanti aspetti di questo mondo, quindi non solo spettacoli ma anche workshop, mostra fotografica, incontri. Battiti ormai è diventato proprio un mese intenso di circo e di teatro, quindi c'è un po' di tutto. Ok, come si struttura questa, che proposta c'è quest'anno? Allora, quest'anno alle 21 nel fine settimana ci sono sempre gli spettacoli adatti anche a bambini volendo, però principalmente ad adulti, e sono tutti spettacoli appunto che alternano tecniche di acrobatica, giocoleria, equilibrismo, e partiamo dal 12 novembre con il cabaret, che ormai è tradizione che il cabaret della settimana dopo apra Battiti, ed è una serata molto particolare perché è una serata che è una reale fucina di artisti, alcuni giovani emergenti, altri anche di una certa fama che in qualche maniera si relazionano con i più giovani, ed è un momento di sperimentazione, di presentazione di nuovi progetti. Con il cabaret poi appunto andiamo avanti con La Vida Rosa, che è uno spettacolo di, soprattutto di acrobatica aerea, e poi ogni fine settimana, ora non voglio tediarti raccontandoteli tutti uno per uno, però tutti i fine settimana ci sono delle cose straordinarie, e la domenica mattina l'appuntamento per i bambini, quindi sempre spettacoli di circo teatro però dedicati ai più piccoli. Fino al 5 dicembre. Nel complesso quanti sono gli appuntamenti? Nel complesso li conto con te, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono 10 spettacoli, no, ti ho detto una sciocchezza, sono 12 spettacoli, 12 spettacoli più 6 workshop e più una mostra fotografica. Ho perso il conto per quante cose sono, siamo esauriti, si sente? Allora, ci parli un po' in generale degli ospiti, degli eventi? Sì, allora guarda, degli ospiti che aspettiamo veramente con grande gioia e li avremmo voluti già un paio di anni fa, ma sono state fermate purtroppo dalla pandemia che c'è stata, è la compagnia francese Zania, che porta uno spettacolo bellissimo di equilibrismo su corda molle e acrobatica su bicicletta. Lo spettacolo si chiama Jamais Arrêt 3 ed è veramente uno spettacolo delicatissimo, allegro e molto intenso. E questo appunto sarà il giorno 20 novembre e la mattina del 21 ed è un appuntamento a cui teniamo tantissimo. Poi ci viene a trovare Federica Maffucci con la sua Zona Franca, uno spettacolo di clown straordinario il 27 novembre e dalla Germania arriva Michela Samachi, originaria di Roma, artista straordinaria, una giocoliera, una ballerina di tip-tap che fa uno spettacolo veramente molto molto energico che sarà il 28 novembre e poi anche offrirà dei workshop, delle lezioni, veramente siamo felicissimi di averla con noi. Un altro artista che aspettavamo da tempo è Luigi Ciotta. Luigi Ciotta con lo spettacolo del 19 novembre a Battoir Blues presenta veramente un lavoro molto particolare sul consumo della carne, uno spettacolo molto molto critico, molto cinico, cattivissimo, mi piace pensare che sia un artista senza pietà e veramente è uno spettacolo da vedere, forse non particolarmente adatto ai bambini per il messaggio forse troppo crudo, non lo so, però davvero molto necessario, per cui ve lo consiglio caldamente il 19 novembre. Poi abbiamo un paio di appuntamenti con Silvio Gioia, che è un artista anche lui del Lazio ed è un artista che lavora soprattutto con le ombre, luci e ombre, presenta spettacoli sia per bambini che per gli adulti il 14 novembre. E la rassegna si chiude poi con lo spettacolo della nostra compagnia, che è la compagnia Materia Viva, lo spettacolo Spaghetti, che oltre ad essere uno spettacolo è anche un progetto sulle migrazioni, quello che abbiamo voluto fare in questi due anni è dedicare proprio la nostra ricerca e il nostro lavoro a trovare un modo per raccontare le migrazioni nella loro forma più positiva e più necessaria. Vorremmo davvero che attraverso questo spettacolo, che parla dei primi del Novecento, arrivasse proprio un messaggio molto chiaro sul fatto che migrare non solo è necessario, ma tutti dobbiamo farci carico dell'accoglienza e tutti dobbiamo farci carico della necessità dei popoli di migrare. E lo facciamo con uno spettacolo di circo teatro che ha dei toni differenti da più leggeri a più drammatici e che speriamo che possa arrivare a tutte le fasce di età, da bambini ad adulti. E con lo spettacolo Spaghetti appunto chiudiamo la rassegna il 5 dicembre, appunto dall'1 al 5 dicembre. Alla rassegna è abbinata anche una mostra fotografica dedicata proprio a questo lavoro di ricerca e di creazione dello spettacolo Spaghetti, che è stato un lavoro veramente molto intenso, e fianco a noi ci sono stati anche altri artisti che hanno dedicato il loro percorso sempre allo studio delle migrazioni, alla ricerca sui confini, sui diritti dei rifugiati. È stato davvero un lavoro molto molto intenso, per cui ci piaceva concludere la rassegna Battiti con qualcosa di forte che sentiamo davvero l'esigenza di voler dire. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Allora, per saperne di più sicuramente consiglio il sito dedicato esclusivamente alla rassegna, che è rassegnabattiti.it. Abbiamo creato un sito specifico dove si potranno trovare foto, video e tutte le informazioni, tutti gli orari sia sugli spettacoli che sui workshop, quindi rassegnabattiti.it. E poi sul nostro sito del Teatro Furio Camillo, teatrofuriocamillo.com, troverete comunque tutti gli appuntamenti anche riassunti in qualche maniera. Noi siamo molto vicini alla metro Furio Camillo, per cui è facile venirci a trovare anche con i mezzi, per chi vuole lasciare la macchina a casa e far puzzare di meno la nostra città, e quindi è facile raggiungerci e vi aspettiamo veramente con grandissima gioia. 8ª edizione di Battiti, rassegna internazionale di circo teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dal 12 novembre al 5 dicembre 2021. Salute e un ringraziamento alla codirettrice del Teatro Furio Camillo, Roberta Castelluzzo. A presto. Grazie a te. A presto, a prestissimo. con Rosario Mastrota, direttore artistico della prima edizione del Festival Mauro Rostagno, ideato e organizzato da Associazione Da Sud e Compagnia Ragli, a Roma, all'AP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, e al Teatro Biblioteca Quarticciolo, dal 15 al 24 novembre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao Federico, ciao a tutti! Raccontaci la genesi di questo progetto. Sì, siamo emozionati, siamo contenti, siamo felici dopo insomma il calvario che tutti abbiamo dovuto attraversare. Il nostro premio Mauro Rostagno, nato 2 anni fa, che purtroppo non si è potuto realizzare l'anno scorso per via della pandemia, quest'anno è diventato un festival, quindi un festival teatrale con delle proposte di artisti che vengono da un po' da tutta Italia, e ci siamo riservati le ultime 2 giornate di questa settimana di spettacoli, appunto, per celebrare e inglobare quindi il premio Mauro Rostagno all'interno del festival. La genesi è partita da un'idea, come al solito, da un'idea collaborativa con l'associazione Da Sud, che insomma, è l'associazione capofila di App Accademia Popolare. Ci siamo seduti al tavolo, abbiamo pensato che questa cosa poteva diventare una settimana di rappresentazioni, e ci siamo riusciti, ce l'abbiamo fatta, anche contenti di aver avuto l'appoggio del Ministero della Cultura e le collaborazioni importanti come quella del Teatro Biblioteca Quarticciolo, che ci offre la possibilità di mettere in scena degli spettacoli lì da loro. Come si articoleranno le giornate? Allora, guarda, abbiamo optato per questa prima edizione, diciamo, per uno sviluppo classico del festival, ovvero una settimana dal lunedì alla domenica, con una coda del festival anche per il 24. Quindi ci saranno degli spettacoli in serale sul nostro sito, insomma, c'è tutto quanto il programma, quindi ci saranno degli spettacoli in serale da noi in biblioteca e al Teatro Biblioteca Quarticciolo, quindi ad App e al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Ci saranno dei matinè alla nostra accademia, una serie di incontri molto, molto importanti, 2 laboratori, uno per adulti condotto da Compagnia Ragli e uno invece per bambini condotto dall'Associazione Teatro Bambini di Roma. E quindi insomma la struttura, diciamo, è molto classica. Abbiamo preferito optare per questa scelta, poi magari chissà, l'anno prossimo decidiamo di allargarci e di fare una cosa un po' più sparsa, ecco. Quanti gli spettacoli e che tipo di scelta è stata? Allora, guarda, gli spettacoli che abbiamo deciso di portare in scena sono delle scelte, insomma, qualcosina abbiamo dovuto diciamo proporla, perché non siamo riusciti a proporla nella stagione teatrale che avevamo previsto di fare l'anno scorso. Quindi abbiamo dei colleghi che hanno atteso, come un po' tutti quanti gli artisti in questo periodo, e quindi sono stati riconfermati all'interno del festival. E poi delle proposte interessanti nuove, delle prime romane, delle prime addirittura regionali. Gli spettacoli, se vuoi te li posso velocemente elencare. Allora, apriamo lunedì 15 novembre con la Compagnia Oderstrasse, con lo spettacolo che si intitola U. È una storia liberamente ispirata agli uccelli di Aristofane. Poi ci saremo noi di Compagnia Ragli con la riproposizione di Pane Nostro. Uno spettacolo che debutterà da noi in anteprima, di Carmen Giordano, Pezzo a Pezzo. Verranno a trovarci gli amici di Scena Verticale con questo melologo, Repi Puzzu, fatto a mano. Avremo il debutto dei colleghi di Farmacia Zoè con Sarajevo Monamur e gli amici di Fortezza Est con Togliatti Monamur. L'ultima sera verrà a trovarci Paolo Virzì, che naturalmente farà un ricordo di Mauro Lostagno e del suo animo rivoluzionario e ribelle, insomma, che celebriamo già da 3 anni. E Paolo Camilli presenterà una cosa inedita dal suo repertorio, Pezzi sui Generis si chiama. Invece il 24 siamo felici di partecipare con il Quarticciolo e di organizzare una delle date di Medea per Strada del Teatro dei Borgia, che è questo spettacolo che si svolge su un autobus sulla Palmiro Togliatti, con la tratta dall'Accademia fino al Teatro Biblioteca Quarticciolo. E poi avremo degli ospiti importanti che sono Davide Iodice e Armando Punzo, che verranno a chiacchierare attorno al tema lanciato all'interno del Festival Restart organizzato da Dasud, il tempo di maleducare, questo è il tema, quindi saranno delle scritture pratiche a confronto, delle conversazioni dentro e fuori la scena, moderati da Maria Teresa Surianello e da Loris Antonelli. E poi presentiamo una collana di saggi e testi teatrali con Vincenza Costantino, Marcello Valterbruno, Donata Chirico e Rossella Menna. Insomma, questo più o meno lo scenario. Poi trovate tutto quanto sul programma, e abbiamo anche una presidentessa della giuria del premio Lostagno, che è Vanessa Scalera, che è entusiasta di venirci a trovare, ha deciso di essere la madrina, diciamo, del premio. E poi chiudiamo la sera, la domenica, chiuderemo con la presentazione di un disco inedito di un musicista molto bravo, che ormai ha il suo nome e lo porta con fierezza dappertutto, che è Gianfranco De Franco, che verrà a presentarci il suo ultimo disco, il suo ultimo lavoro. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Assolutamente. Allora, trovate tutto sui nostri siti, quindi www.appaccademia.it, www.dasud.it, www.compagniaragli.com e naturalmente anche sul sito del Teatro Biblioteca Quarticciolo. Prima edizione del Festival Mauro Lostagno, ideato e organizzato da Associazione Da Sud e Compagnia Ragli, a Roma, all'AP, Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, dal 15 al 24 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Rosario Mastota. A presto! Ciao Federico, grazie, è sempre un piacere trovarti. Con Piero Ristagno della compagnia Neon Teatro per presentare lo spettacolo Anima Mundi a Catania al Teatro Stabile dal 6 al 17 novembre 2021. Ben trovato! Ciao, ciao! Ci racconti di questo progetto? La terza composizione per la regia di Monica Felloni di una trilogia che abbiamo chiamato Trittico della felicità umana, che comprende Chatu, Invasioni e questo terzo spettacolo che appunto è Anima Mundi, un progetto che si è sviluppato nell'arco degli ultimi 5 anni. Anima Mundi è ispirato dal pensiero di Baruch Spinoza. È il tipo di spettacolo che Monica mette in scena con la compagnia Neon Teatro, è magnifico. Era partito fin dall'inizio come progetto in più tappe? Sì, sì, fu pensato nel 2016, pensando proprio a 3 tappe di una nostra indagine, che a partire da una lettura di qualche anno precedente di Hillman, James Hillman. Un'indagine, dicevo, che è in relazione al Rinascimento. E quindi il primo spettacolo fu su Giordano Bruno, il secondo sul mito della Madre Terra e il terzo è questo su Spinoza. Come lo avete strutturato? Come sempre nascono gli spettacoli di Neon Teatro, cioè attraverso delle attività laboratoriali e che poi mano a mano si amalgamano, si concentrano in un'azione scenica che poi alla fine diventa uno spettacolo, ma nell'arco di tanti mesi, diverse fasi di lavoro per poi giungere a una completezza. Quanti sono gli attori e le attrici in scena e come si articola la messa in scena? La compagnia è composta da 15 attori, sono attori, danzatori, si articola in un flusso continuo, mi viene a dire, di poesia. Siamo di fronte a una dimensione poetica della scena e delle relazioni che le persone hanno in scena in occasione di questo essere che non è un'interpretazione di altri, un'interpretazione di testi, è un interpretarsi in scena con un rigore, una elaborazione delle relazioni che è proprio caratteristica di Monica. Ecco, rispetto all'opera di Spinoza, su quali elementi avete posto l'attenzione? Spinoza è sicuramente il filosofo più difficile anche da interpretare per i filosofi stessi nell'ambito della storia della filosofia. È un caso unico, particolarissimo. L'elemento più importante del suo pensiero è la dimensione della gioia di vivere, che è manifestazione della divinità. Cioè la natura è Dio, è la vulgata più comune del pensiero di Spinoza, ma c'è un elemento importante in questo suo essere misconosciuto e di sapere molto poco anche della sua vita quotidiana, non c'è tantissima documentazione, è il sapere che lui rispetto alla storia della filosofia ha questa dimensione di alterità, di essere veramente come uno scarto e di essere così luminoso, così potente nel credere che la vita, essendo Dio, è bella e va vissuta con gioia. Ci dai anche qualche cenno sulla storia, sull'esperienza della compagnia Neon Teatro? Neon Teatro è l'azione più importante, fondamentale dell'associazione culturale Neon che abbiamo fondato io e Monica nel 1989. E da sempre, dall'89 in poi, abbiamo sempre lavorato per le persone che vogliono fare teatro e quindi a prescindere da ogni categorizzazione di quelli che vengono, si affacciano, curiosano, rimangono. Ma questo ha consentito negli anni di maturare dei rapporti artistici non solo di lunga durata, ma sempre pregni di un desiderio di essere nel mondo e di esserci con tutta la propria caparbietà e il desiderio di cambiarlo il mondo. Lo spettacolo poi prenderà un suo percorso nazionale dopo Catania? Ce lo auguriamo, anche se al momento non ci sono gli elementi per dirlo, però è chiaro che è uno spettacolo che ambisce a una visibilità nazionale. Lo spettacolo Anima Mundi a Catania, al Teatro Stabile, dal 6 al 17 novembre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Piero Ristagno della compagnia Neon Teatro. A presto! Grazie, grazie. Ciao! Con Manuela Pinetti, coautrice del libro Busta Pazzesca, Lavoretti, con una presentazione a Roma, alla Biblioteca Laurentina, giovedì 11 novembre 2021, ma altri appuntamenti che ci dirà lei stessa. Ben trovata! Ciao Federico e grazie per questa intervista. Che progetto è questo? Busta Pazzesca, partiamo dal nome. Una busta a Roma è una ragazza poco carina, diciamo, un cesso. Questa busta può essere ripiena di varie cose, ma non lo diremo per decenza. Ma Busta Pazzesca, appunto, è una ragazza poco carina, ma è pazzesca. Vive a Laurentino 38, ha circa 24 anni ed è una qualcosista freelance, ovvero una ragazza che prova a fare di tutto per riuscire nella vita. Lavoretti è il secondo romanzo che racconta le avventure di Busta Pazzesca. Usciamo con la casa editrice Momo. Parlo al plurale non perché sia il Papa, ma perché siamo in due dietro questo progetto. Insieme a me c'è Danni Gianluigi Ceccarelli, che è coautore e co-creatore del personaggio insieme a me. Il primo romanzo è uscito nel 2019 2019 con edizioni ensemble e si intitolava 3 metri sotto il Laurentino più 38. Questo nuovo del 2021 si intitola appunto Lavoretti ed è incentrato sul tema del precariato, quindi una piaga raccontata però con uno sguardo ironico, mai piagnucoloso, molto molto verosimile. Il personaggio nasce sui social un po' di anni fa, quindi Facebook, Instagram, Twitter, un blog dove postavamo racconti più o meno lunghi, collaborazioni con alcuni giornali, tra cui Nuovo Paese Sera, per il quale abbiamo tenuto anche una fantastica rubrica di posta del cuore, e posso giurare che ci scrivevano per avere consigli sentimentali. Allora, l'universo di Busta Pazzesca, di questa pischella non esattamente bellissima, ma che ha i valori, come dice lei, è composto dalle sue due amiche del cuore, che sono Sharon e Maruska. Maruska che è bella e scema, e Sharon che è scema e basta. Un padre assente, presente, burbero, molti amici e un quartiere intero, il Laurentino 38, quindi periferia dei ponti e dei cemento di Roma sud-sud-est, per i romani noto per lo più come i ponti. E da qui partono le avventure di questa pischella, di Busta Pazzesca, e in questo romanzo, in cui parliamo appunto di lavori, lavoretti, lavoracci, ogni capitolo è incentrato su un lavoro diverso. Abbiamo la nostra protagonista che si è appena laureata e si confronta con il mondo del lavoro, quindi con il mondo degli stage, che però vengono anche chiamati tirocini da lei, con tutto quello che può conseguire: stage, master, lavoro d'ufficio, lavoro da casa, lavori inventati. In ogni capitolo lei affronta un diverso lavoro, sempre con ironia, sempre con qualcosa che va a finire malissimo, però nel contempo c'è anche il racconto della sua vita, quindi le amicizie, l'amore, la mancanza dei soldi, sempre, costante, perenne, le umiliazioni del lavoro. La curiosità è com'è costruito il personaggio. Sono racconti idee vostre, basate magari anche su interviste o su storie sentite? Come funziona? Il personaggio non esiste e non è ispirato a nessuna persona reale. Ci sono nostre esperienze personali, mie e di Gianluigi, perché comunque anche noi siamo dei precari. Siamo molto ad altezza strada, ad altezza marciapiede, ascoltiamo molto, parliamo molto, soprattutto, ecco, ti posso dire di profonda conoscenza del quartiere Laurentino 38, soprattutto. È un quartiere che abbiamo scoperto per caso circa 10 anni fa, perché siamo finiti tutti e due a lavorare lì in un call center. A proposito di precariato, ci siamo illuminati perché avevamo già creato il personaggio e tutta la sua corte di personaggi intorno, ma non l'avevamo collocata precisamente in un posto di Roma. Quando abbiamo visto il Laurentino 38 abbiamo detto: è qui che sta la nostra busta. E abbiamo iniziato a frequentare il quartiere al di là del lavoro, a conoscere le persone, sì, ad andare anche a casa loro. Siamo saliti sui terrazzi dei grattacieli, insomma dei ponti, delle torri del quartiere, abbiamo conosciuto tantissime persone. Io personalmente ricordo di essere anche andata a raccogliere la cicoria nella marana del quartiere con delle signore. E la lingua del personaggio di Busta Pazzesca è ovviamente il romanesco, però non è il romanesco quello dei stornelli, quello storico, anche perché né io né Gianluigi siamo realmente romani. È un romanesco che noi chiamiamo 2.0, nel senso che è molto inventato e molto adattato a un pubblico più vasto possibile. Fin dall'inizio abbiamo avuto l'ambizione che Busta Pazzesca avesse un pubblico anche al di fuori del Gra, anche al di fuori di Ostia, quando stavamo ancora sui social. E quindi la lingua si è evoluta, perché all'inizio era un po' più spinto questo romano, però in tanti, che ne so, che ci scrivevano da Torino, da Milano, da Caltanissetta, dicevano: oh, ma non si capisce, che stai a dire? E piano piano, con i feedback che ricevevamo dai followers, che quando sono followers di Busta si chiamano fans con la Z, abbiamo addomesticato un po' questa lingua, quindi diciamo che è un processo collettivo, un po' come poi succede anche nel mondo reale, nelle lingue reali. E il primo romanzo, cioè abbiamo messo 4 anni a trovare un editore, perché dicevano: sì, è bello, o facciamo in italiano però, no così, perché così se no non lo vendemo. E invece no, noi de goccio, no, no, no, finché non abbiamo trovato un editore che ha detto: va benissimo così com'è, e insomma abbiamo vinto, perché poi se siamo arrivati anche al secondo romanzo vuol dire che andava bene, insomma. Il resto è una realtà che conosciamo tutti, no? Di precariato, di contratti così un po' farlocchi, parliamo anche di decreto dignità, parliamo dei rider, cioè ecco, il nostro personaggio fa tutte queste cose più o meno tutte insieme. Come mai questo busta, che non è con la U ma con la doppia O e pronuncia anglosassone? La nostra protagonista ha vissuto una specie di trauma da nominazione, nel senso che a lei la chiamavano busta fin da quando era ragazzina, perché era brutta, lo sai, a busta! E una volta, questo è narrato nel primo romanzo, e una volta gliel'hanno scritto anche sul diario a scuola, gli avevano scritto busta, però una delle sue due amiche del cuore, Maruska, ha unito la parte superiore delle U, trasformandole in due O, ci ha fatto due occhietti carini e le ha detto voilà. Ecco qui, vedi, così è più carino. E da lì è nata l'idea di fare busta. Ci dai tutti i riferimenti per saperne di più anche per le prossime presentazioni? La primissima presentazione, che sarà anche un'anteprima della vendita del libro, sarà giovedì 11 alla Biblioteca Laurentina, Centro Culturale Elsa Morante, quindi Laurentina 38. A moderare ci sarà Daniele Mencarelli, che non ha bisogno di presentazioni. Poi la successiva presentazione sarà alla Feltrinelli di Via il 17 novembre a partire dalle 20, sempre su prenotazione, e poi saremo domenica 21 al Brancaleone nell'ambito del Festival Libri Monelli di Momo Edizioni. Poi ce ne saranno altre, ma le sveleremo più in là. Sul web, per saperne di più, c'è un riferimento? Abbiamo il nostro profilo Facebook proprio a nome e cognome, Busta, scritto con due O, pazzesca. Abbiamo un blog, bustapazzesca.com, poi siamo su Twitter, siamo su Instagram e naturalmente ci trovate adesso anche per tutti i riferimenti anche sulle pagine della casa editrice Momo Edizioni. Il libro Busta Pazzesca, Lavoretti, a Roma, Biblioteca Laurentina, giovedì 11 novembre 2021, il primo appuntamento. Un saluto e un ringraziamento alla coautrice Manuela Pinetti. A presto! A presto, ciao Federico, grazie! Siamo all'agenda della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone, dici tutto. Buon pomeriggio a tutti quanti. E innanzitutto andiamo a vedere Home I'm Darling di Laura Wade, che è un testo che è vincitore del Laurence Olivier Award 2019 con la regia di Luchino Giordana ed Esther Tatangelo in scena. Ci sarà tra i tanti Laura Nardi e Roberta Mattei, che insomma sono attrici di sicuro valore, e si tratta di una pièce incentrata su Judy e Johnny, che vivono in una deliziosa villetta degli anni 50, ci sono tutti i comfort dell'epoca. Insomma, e inizia una vicenda nel loro ménage familiare. Ma attenzione, perché a un certo punto da un cassetto Judy tira fuori un laptop. Scopriamo così che la casa, i vestiti, tutta quella vita perfetta di allora è in realtà una messa in scena, una sorta di Truman Show, cosciente, consensuale, diciamo, ecco, secondo quello che ci viene scritto nel comunicato. In ogni caso noi lo andremo a vedere al Teatro Tor Bella Monaca da questa sera 9 novembre fino al 13, quindi attenzione, perché Home and Darling si palesa come uno dei progetti della settimana. Questa settimana andremo al Teatro Torlonia per vedere un lavoro dedicato ai più piccoli, 12, 13 e 14 novembre, con Mondo, testo e regia di Giuseppe Di Bello, con in scena Marco Continanza. Si tratta di un lavoro dedicato appunto a un ragazzino tenero, semplice di spirito, appunto Raimondo, che per tutti è Mondo. E la sua storia, che racconta insomma inizialmente la sua infanzia, poi si arricchisce con l'arrivo di Margherita, questa ragazzina che condivide le sue scelte e arricchirà la sua esperienza, quindi una sorta di spettacolo di formazione quello che sarà in scena al Teatro Torloni dal 12 al 14 di novembre, Mondo. Poi procediamo, andiamo avanti con un po' di lavoretti qua e là. Teatro Basilica in scena da questa sera fino al 21, Voltati, parlami, il testo di Alberto Moravia che Lucia Lavia porta in scena e interpreta, il suo debutto alla regia per Lucia Lavia dal 9 al 21, questo testo di Moravia pubblicato nel 1984 che si ispira al dramma di Eugene O'Neill intitolato Prima di colazione. Moravia aveva tratto un soggetto da un precedente racconto intitolato La Vergine e la droga e lui stesso ha definito il suo monologo un soliloquio di una snervante pariolina con accanto il compagno, un poetucolo italo-americano di Los Angeles. Moravia in realtà voleva parlare di qualcosa di molto più profondo, una storia di solitudine, uno squarcio feroce su due esseri umani che appunto saranno in scena, chi no va a capire, questo lo scopriremo, ma soltanto vedendo lo spettacolo 9-21 novembre, Volta di Parlami, Alberto Moravia con la regia di Lucia Lavia. Andiamo anche al Teatro Garbatella, pensa un po', perché ci andiamo a vedere questo testo, regia di Francesca Bruni, dedicato al grande personaggio che è stata Maria Antonietta, l'ultima regina di Francia, quindi per appassionati storici di questi di personaggi particolari, progetto biografico dedicato a Maria Antonietta da parte di Francesca Bruni, 11-28 novembre. Vediamo un po' poi con questa novità del Silent Theater immersivo e sonoro, Il Bunker di Massimo Roberto Beato e Federico Malvaldi con la compagnia di Imaginarieri, la regia di Jacopo Bezzi, presentano appunto questo spettacolo appunto dal nome Il Bunker, un clima distopico post-apocalittico che tratta il tema dell'incapacità di relazionarsi nel mondo contemporaneo che hanno le nuove generazioni. La protagonista, Adele, si nasconde e si chiude in un bunker con il fratello Sasha di 8 anni, dopo che il mondo sembra vittima di una pioggia nucleare mortale. Questa è la vicenda, questo è l'innesco del racconto dall'11 al 28 novembre, spazio 18B con la compagnia dei Masnadieri. Andiamo al Teatro Vascello perché 9-14 di da questa sera fino al 14 di novembre è l'occasione per vedere gli spettacoli di danza della Spellbound e della Dancing Partners. Inizieremo con questa sera e domani Chamelon, la compagnia inglese, Frantics Dance Company, compagnia tedesca, Spellbound, Contemporary Ballet, Italia con Ascent, mentre vedremo anche Thomas Noon Dance, con che sono spagnoli, con After the Party. Poi sarà l'occasione ancora per Spellbound 25, con 11-12 novembre, 13 e 14, per vedere Wonder Bazaar di Mauro Astolfi, ancora Unknown Woman con Mauro Astolfi e Maria Cossu, Affi di Marco Goetzke, credo, e Mario Latenza, se non sbaglio, se la pronuncia è questa, e Marte invece firmato dal coreografo Marcos Morau, sempre per Spellbound Contemporary Ballet. Tutto questo al Teatro Vascello per questa settimana, fino al 14 di novembre, da questa sera. Procediamo con un po' di cose sparse. Intanto ci segnalano da Fabula Mundi Playwriting Europe che torna a Roma in questo autunno con gli appuntamenti del playwriting, del playground, perdono, dispositivo di formazione per nuove scritture destinato ad autrici e ad autori della drammaturgia contemporanea, con possibilità di confrontarsi con nuovi format e tematiche. Ed ecco qui che avremo il regista italo-palestinese Omar Elerian e le registe italiane Veronica Cruciani e Lisa Pernazzonatori con La Casa d'Argilla. E il primo playground con Veronica Cruciani, ci saranno le tre drammaturghe, Maria Teresa Berardelli, Elisa Cassini, Carlotta Corradi, sarà dall'8 al 13 novembre, poi il 13 novembre ci sarà una apertura al pubblico al Teatro India, al Teatro India alle ore 16 il 13 novembre. Per quanto riguarda invece il progetto successivo, ne andremo a parlare poi la settimana successiva, perché ci vorrà ancora qualche giorno. Quindi questo è il progetto del Playground Fabula Mundi di questa settimana, quindi chi avesse attenzione alla drammaturgia contemporanea, uno sguardo senza ombra di dubbio. Poi andiamo sicuramente a Spazio Rossellini, dove è una compagnia piuttosto interessante del panorama contemporaneo di questo periodo, che viene da Roma, che ha vinto un po' di premi spazi qua e là, i Teatri del Sacro 2019-2017 aveva vinto con Sempre Domenica e In Box, e loro sono la compagnia Controcanto Collettivo per la regia di Clara Sancrinca. Insieme a Spazio Rossellini, insieme alla TCL Regione Lazio, co-gestisce lo spazio, dall'11 al 14 novembre presenta 70 volte 7, 11-13, mentre domenica, il 14 novembre, alle ore 17.30, ci sarà la centesima replica, la festa, per Sempre Domenica, e appunto sarà proprio domenica. Questo è da non perdere, perché sono una compagnia che si sta segnalando molto bene. 70 volte 7 racconta la vita di due famiglie, i cui destini si incrociano in una sera, e la loro relazione, l'empatia, e forse anche il contrario stesso di questa empatia, cercherà di mettere in luce ciò che riguarda, insomma, appunto il rapporto, la relazione tra gli esseri umani, affrontando il tema del perdono e delle possibilità che questo porta all'interno della relazione. Mentre invece Sempre Domenica è un lavoro sul lavoro, sul tempo, l'energia e i sogni che il lavoro quotidianamente mangia, consuma, sottrae. Sul palco ci sono 6 attori su 6 serie che tessono insieme una trama di storie e aprono squarci di esistenze incrociate. Questo andremo a vedere allo Spazio Rossellini per questi prossimi giorni, con Controcanto Collettivo dall'11 al 14. Al Teatro Biblioteca Corticciola invece, 12-14, per vedere Wojciech di Letizia Russo, ovvero sia una riscrittura che Letizia Russo fa del capolavoro di Büchner, di Büchner, che appunto riscrive, e con la regia di Carmelo Alù e l'interpretazione di Marco Quaglia. Sarà in scena da venerdì a domenica 12-14 al Teatro Biblioteca Quarticciolo. Poi ancora avremo sicuramente a Roma arriva la seconda edizione del festival che porta il teatro americano in Italia, all'Off of Theater e al Teatro di Roma. Dall'11 al 15 novembre ci sarà questo On Stage Festival, un 5 spettacoli inediti direttamente dagli Stati Uniti, che andranno appunto in scena negli spazi dell'Off of Theater al Villa Torlonia e al Teatro del Libro, con un programma innovativo improntato sulla contemporaneità. Ci sono esempi eterogenei di ciò che viene prodotto sulla scena statunitense, per far capire un po' com'è dall'altra parte del mondo che si pensa e si immagina il teatro e si realizza soprattutto il teatro. Quindi per il programma poi completo invito ad andare a vedere poi il sito dell'Off of Theater e anche del Teatro di Roma, appunto, con i teatri coinvolti, perché insomma ci sono più spettacoli, sono 5 e è il caso di andare a dare uno sguardo indubbiamente. Poi Teatro Argo Studio, perché 11-14 novembre arriva l'incredibile storia di Elio Trenta. C'è in scena Luigi Liberti e racconta appunto la storia di Elio Trenta, un sognatore curioso, intraprendente, che è emblema della genialità italiana. Lo fa partendo da elementi storici reali e si concede per una narrazione all'interno invece di un percorso di fantasia, per questa idea visionaria di questo sconosciuto ragazzino umbro che è vissuto un secolo fa e morto troppo presto. Quindi per scoprire un po' il genio di Elio Trenta, che abbiamo perduto presto, che è una storia persa nella nostra storia del secolo precedente, ecco qui che l'Argo Studio apre a Luigi Liberti Questa incredibile storia si chiama E.T., l'incredibile storia di Elio 30, appunto, e con la regia di Francesco Frangipane. Ancora andiamo a Roma Europa, no, prima di andare a Roma Europa Festival, con cui concluderei, c'è un progetto di danza molto importante che arriva per grandi pianure al Teatro India 13-14 novembre, Nasera Belaza, la coreografa franco-algerina presenta L'Ond, che è un lavoro che è stato portato già in tutte le parti del mondo e che esplora la dimensione del rituale, interroga il gesto coreografico. Come possiamo attraversare la ripetizione, riconnetterci con ciò che vive dentro di noi e diventare tutt'uno con il tutto? Questa è la domanda che la coreografa franco-algerina Nasera Belaza porta con L'Ond il 13-14 novembre al Teatro India. Ed ora sì che andiamo a Roma Europa Festival per andare a vedere 13-14 novembre un progetto dedicato ai bambini con la Compagnia Teatro Viola, Chiara De Bonis, Alice delle Meraviglie. Compagnia Teatro Viola è una compagnia che nasce con Federica Migliotti, appunto regista di questo spettacolo, che appunto porta in scena questa Alice, Lewis Carroll, però all'interno di una riscrittura completamente diversa, in cui gli elementi della celebre favola, anche se poi favola non è, è all'interno di un'atmosfera vintage. Lei ci svelerà la doppia vita degli oggetti accompagnandoci in un mondo di meraviglie, riscoperte e incontri incredibili. Questo andremo a vederlo. Allora, attenzione, in scena non c'è soltanto Chiara De Bonis, ma anche Emilio Barone. Ecco, questo mi era sfuggito. La regia sì, è certo, sempre di Federica Migliotti. Quindi 13-14 novembre, Alice delle Meraviglie, alla Mattatoio per Roma Europa Festival, quindi negli spazi del Mattatoio. Questa sera invece, 9 novembre alle 20.30, sempre al Mattatoio, ci sarà il Focus, premio Riccione per il teatro, premio Tondelli. Situazione drammatica, quel format ideato da Tindoro Granato, ospitato nell'ambito di Anni Luce, dedicato alla nuova drammaturgia. Ci saranno il premio Pier Vittorio Tondelli, Niccolò Sordo, con il testo Ok Boomer, che verrà letto in apertura di serata, estratto ovviamente, e il vincitore del premio Riccione, Pier Lorenzo Pisano, con Carbonio, che con Francesco Villano, Francesca Dorini e lo stesso autore verrà proposto in scena. Un incontro avvicinato con una forma di vita aliena, l'hanno visto tutti, non è il solito video sgranato fatto da una piccola telecamera, ma centinaia di testimoni per questo incontro. Cos'è un alieno? Il totalmente diverso da noi? Cosa significa entrare in contatto con qualcosa di estraneo? Questa è la domanda di Pier Lorenzo Pisano, verrà portata in scena questa sera 20.30 nello spazio del Mattatoio. Ancora un paio di appuntamenti, forse tre. Per la danza Roma Europa Festival, Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi, 11-13 novembre, Dada Masilo con The Sacrifice. Questa danza zwana, nata appunto nel Botswana, è unica per ritmo ed espressività. È la fusione, la sovrapposizione di danze e bagagli culturali differenti che muove la coreografa e sembra rivolgersi, a questo caso, al minimalismo. Cos'è oggi un sacrificio? È davvero necessario per il cambiamento? A partire da questa domanda, la coreografa Dada Masilo costruisce un tessuto narrativo che la conduce a lavorare sulla sua identità, i tanti collettivi, il rituale, ma anche il dolore, la sofferenza. Questo sarà in scena al Parco della Musica Auditorium 11-13 novembre. Mentre invece con la società Raffaello Sanzio, Claudia Castellucci, andremo a portare all'auditorium 13-14 novembre anche la nuova abitudine, ballo della compagnia Mora con i cantori del coro di musica Eterna. Questo all'auditorium, mentre invece sul palco del Teatro Pallari, un po' diciamo il progetto della settimana, indubbiamente è questo l'inferno della compagnia Aldes con Roberto Castello, che 12 e 13 novembre porta la sua coreografia, la sua nuova creazione in prima nazionale. Il titolo trae un po' in inganno, forse è un inferno che assomiglia nell'aspetto più al paradiso, ma non è legato alle celebrazioni dantesche. È una commedia ballata, seducente, piacevole, coinvolgente e brillante, sull'invadenza dell'ego, su ciò che spinge tutti a fare sforzi per apparire in ogni momento e ad ogni costo. Questo è appunto l'inferno e la condanna a dover essere sempre migliore degli altri in qualunque cosa. 12-13 novembre, Teatro India, ho detto male, chiedo perdono assolutamente, Teatro India per Roma Europa Festival con Inferno di Roberto Castello e compagnia Aldes. Ancora ricordo una cosa piccolina, perché ne parleremo magari meglio la prossima settimana, ma siccome debutta lunedì, sempre per Roma Europa Festival a Teatro Vascello, mi preme di parlare di una cosa enorme, lo spettacolo nuovo di Fabiana Iacozzilli, che sarà in scena dal 15 al 21 novembre, in scena una donna con una pancia enorme, ed è il tema della maternità quello che viene messo sotto attenzione, ma ne parleremo meglio martedì prossimo. Per il momento è tutto, ciao a tutti! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.